Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. WikiLeaks, Julian Assange si consegna alla polizia di Londra. Il commento di Frattini: era ora. Via libera dell'Ecofin al piano di aiuti per l'Irlanda, in arrivo 85 miliardi di euro, di cui 35 per la ricapitalizzazione delle banche. Un errore di traduzione ed è tutto da rifare per la scomparsa di Yara, disposta la scarcerazione per Mohamed Fikri. Oggi comincia il trasferimento dei rifiuti napoletani in Puglia. Il governatore Vendola: siamo di fronte ad una crisi nazionale. Buona giornata dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. Accusato dunque di stupro dalla Svezia, è stato arrestato questa mattina in Gran Bretagna il fondatore di WikiLeaks, Julian Assange. L'uomo che ha messo in circolazione milioni di file riservati, facendo tremare le diplomazie mondiali, è stato arrestato questa mattina a Londra. Un arresto programmato in base agli accordi intercorsi tra i suoi legali e Scotland Yard, a seguito del mandato di arresto diramato dall'Interpol su richiesta della Svezia. La magistratura svedese, infatti, cerca Assange per ragionevoli sospetti di stupro. In giornata, Assange comparirà davanti alla Corte di Giustizia di Westminster, chiamata a decidere sulla richiesta di estradizione. Una possibilità che Assange intende in ogni modo contestare, perché, dice, potrebbe portare alla sua consegna negli Stati Uniti. Per riuscire nell'intento, intende chiedere assistenza anche alle ambasciate australiane in Gran Bretagna e Svezia. L'accerchiamento internazionale, per fortuna, ha avuto successo, ha commentato intanto a caldo il ministro degli esteri italiano Frattini, ma tutto sarebbe pronto per una nuova ondata di informazioni per l'immissione in rete del file detto il giorno del giudizio, quello che aprirebbe al mondo intero l'archivio di WikiLeaks, l'ultima arma affilata dai sostenitori di Assange per salvarlo dal carcere. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. Via libera dell'Ecofin al piano di aiuti per l'Irlanda, ci racconta tutto Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno. Vale 85 miliardi di euro il piano di aiuti varato dall'Ecofin a favore di Dublino, piano questo messo a punto dal Fondo Monetario e dall'Unione Europea. In particolare 35 miliardi sono destinati alla ricapitalizzazione delle banche irlandesi, 10 di questi sono immediatamente disponibili, i restanti 50 miliardi finanzieranno il bilancio statale. Per quanto riguarda gli aiuti al sistema del credito, l'accordo raggiunto prevede che metà dei fondi arrivi dalla stessa Irlanda attraverso le sue riserve di liquidità e una parte dei capitali detenuti nel Fondo Previdenziale Nazionale. Il resto della somma sarà suddiviso in parti uguali tra il Fondo Salva Stati, di cui sono azionisti i paesi euro, il Fondo Monetario Internazionale, insieme a prestiti bilaterali di Regno Unito, Danimarca e Svezia. I prestiti saranno erogati sulla base di un programma negoziato con il governo irlandese. Condizione per l'intesa è una profonda ristrutturazione del sistema bancario dell'isola, oltre a riforme per sostenere la crescita e riportare il deficit sotto il 3% entro il 2015. È tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo Miglietta. Entro stasera dovrebbe arrivare il via libera al Senato alla legge di stabilità, senza modifiche rispetto al testo uscito dalla Camera. L'ok finale è previsto per domani sera. Il governo assicura che non ci sarà bisogno di una manovra bis. E prosegue il conto alla rovescia verso il 14 dicembre. Elisabetta Fiorito. Sì Piera, ipotesi e smentite si alternano in vista del voto del 14 dicembre. Tocca a Paolo Bonaiuti, portavoce del Premier, a smentire la notizia che dava Silvio Berlusconi disposto a fare un passo indietro. Un piano B, scriveva il quotidiano La Repubblica, una valvola di sicurezza che poteva portare un altro Premier del PDL a Palazzo Chigi e spostare il Cavaliere al ruolo di Ministro, magari degli Esteri. Questa mattina Bonaiuti bolla come fantasia le ricostruzioni pubblicate da Repubblica, è un'altra farsa giornalistica pura, totale, assoluta invenzione. Non c'è nessun piano B, da qui al 14 chissà quanti altri finti scoop vedremo. Fabrizio Cecchitto invece risponde a Gianfranco Fini: se non vuole il ribaltone, spiega il capogruppo PDL alla Camera, Future Libertà non deve sommare i suoi voti con l'opposizione, in caso diverso i finali darebbero vita a uno schioramento da ribaltone. E per un minuto qui da Montecitorio è tutto, voi studio. Grazie ad Elisabetta Fiorito. Sono disponibile alla candidatura a sindaco di Milano, ho già segnalato ai triumviri la mia decisione. Lo ha annunciato l'ex primo cittadino del capoluogo lombardo Gabriele Albertini, attuale europarlamentare in quota PDL. Una decisione criticata da Matteo Salvini, capogruppo della Lega Nord al Consiglio Comunale di Milano. è un problema del PDL, perché Albertini oggi è presidente della Commissione Esteri del Parlamento Europeo per il PDL, quindi se si candida contro il PDL semmai è un problema loro che si risolveranno loro. Aggiungo confusione a confusione, però come milanesi siamo abituati a guardare avanti e non voltarci indietro. Semmai c'è magari il problema di coerenza di qualcuno che si candida contro se stesso e contro il suo stesso partito. Speriamo che il PDL trovi la rotta e sistemi i suoi problemi interni. Come Lega abbiamo scelto di continuare a essere Lega e quindi penso che anche questa eventuale candidatura non cambi di una virgola gli equilibri. Ed ora la cronaca in primo piano: la scomparsa di Yara Gambirasio nel Bergamasco. Firmata questa mattina la richiesta di scarcerazione per Mohamed Fikri, il 22enne marocchino che domenica è stato fermato per la scomparsa appunto 10 giorni fa della ragazza. Secondo il PM infatti gli indizi sono troppo labili, tanto da non poter chiedere l'arresto del giovane. Tutto è partito da un'intercettazione telefonica e da una traduzione sbagliata, come racconta Giovanni Fedeli, avvocato difensore di Fikri. Lo ha intervistato Cristina Carpinelli. In poche parole, che inizialmente quando è stato applicato il fermo da parte del pubblico ministero ha ritenuto che ci fossero i gravi indizi di colpevolezza sulla base di alcuni elementi, fra i quali il più importante sembrava essere quella traduzione dall'arabo di una telefonata intercettata alla Fikri, nella quale sembrava dicesse "Dio perdonami, quella non l'ho uccisa io". Poi successivamente al fermo abbiamo appurato che invece diceva "Dio Dio, perché non rispondi?", quindi era un'imprecazione perché nessuno rispondeva alla sua chiamata. Questo grazie al vostro intervento, all'intervento dell'avvocato Barbieri, che in qualche modo ha risottoposto a traduzione l'intercettazione? Anche perché l'avvocatessa Barbieri, sì. Per sua esperienza, cose come queste accadono frequentemente? Possono accadere, in buona fede possono accadere. Dall'arabo a volte si può confondersi. Oggi intanto riprenderanno le ricerche di Yara nell'invaso pieno d'acqua nei pressi del cantiere edile del centro commerciale in costruzione alla periferia con Mapello. Secondo voi più immigrazione vuol dire più criminalità? È la domanda del nostro sondaggio di oggi. Il 66% di voi ha risposto di sì, il no per il 34%. Ma ascoltiamo Ettore Pirovano, presidente della provincia di Bergamo, al microfono di Alessandro Milan. Innanzitutto faccio i complimenti al sindaco di Brembate per come sta gestendo la cosa. I manifesti erano due pezzi di carta scritti con un pennarello, con errori anche di grammatica, attaccati a una cancellata, e sono stati rigettati da tutta la popolazione di Brembate, che credo sarebbe molto più interocita se l'assassino, l'eventuale assassino, e spero che sia ancora così, ammesso che ci sia qualche probabilità che questa ragazza sia viva, se il responsabile fosse bergamasco o italiano, credo che sarebbero ancora più arrabbiati. La gente nostra non ha assolutamente alcun senso di razzismo nei confronti di nessuno, tanto è vero che gli stranieri che sono lì e che lavorano sono perfettamente integrati, vanno all'asilo, vanno a scuola, ricevono i contributi. Io vorrei ricordare che forse gli episodi veri di violenza e di razzismo sono avvenuti molto più a sud della provincia di Bergamo, con stragi mafiose eccetera. Però vorrei anche ricordare un'altra cosa, che su circa 1000 episodi in un anno di violenza nei confronti simili a quelli a cui siamo stati abituati in queste due ultime occasioni a Vetrana e Brembate, su circa 1040, 399 sono causati da stranieri. E alla Lamezia Terme migliaia di persone stanno partecipando ai funerali dei 7 ciclisti uccisi domenica sulla statale 18. Non è questo il tempo di puntare il dito o di cadere nei luoghi comuni, piuttosto chiediamo al Signore di saper accogliere la sua luce che viene dall'alto. Sono le parole del vescovo della diocesi di Lamezia Terme, Monsignor Luigi Antonio Cantafora, nel corso dell'omelia. E lui era un uomo che di pedalate sulle statali se ne intendeva. Fiorenzo Magni, l'uomo che nel dopoguerra ha dato filo da torcere a Coppi e Bartali, oggi compie 90 anni. Vincitore di 3 Giri d'Italia, fu soprannominato il terzo uomo proprio perché spesso con i suoi attacchi riusciva a imporsi sui due più famosi campioni. Vinse anche per 3 volte il Giro delle Fiandre, conquistando appunto l'appellativo di Leone delle Fiandre. Intervistato da Dario Ceccarelli, Magni ripercorre così la sua carriera. Lo sport mi ha dato quello che poteva darmi e che io potevo pretendere, non ho rimpianti, perché la mia filosofia è questa: ho perso corse che dovevo vincere, ne ho vinte, qualcuno dovevo perdere, alla fine c'è un bilancio, guai, non mi hanno mai sentito dire sono sfortunato, perché per me la parola fortuna non esiste, bisogna superare la sfortuna, ma questo non solo nello sport, nella vita in generale. Si diceva sempre di lei, lo si dice ancora, il terzo uomo, ecco, è per lei è un po' riduttivo o alla fine la inorgoglisce un po'? No, mi inorgoglisce, io non ho mai fatto, non sono stato geloso, io ho cercato, non dicendo mai sono sfortunato, e pensando alla corsa che dovevo fare, pensando a questi che erano grandi campioni, qualcuno di questi supererà me, però alla fine qualche volta li battevo, quindi sono molto soddisfatto. Un risultato eccezionale, così il ministro dell'istruzione Gelmini commenta gli esiti dell'indagine OCSE PISA svolta nell'aprile 2009. L'Italia risale nella classifica di 6 posizioni nella comprensione dell'italiano rispetto al 2006, di 3 nella matematica e di 1 nelle scienze. Gli studenti quindicenni di casa nostra migliorano dunque, ma ancora troppo poco, anche perché nel frattempo i colleghi europei e asiatici migliorano molto di più. L'Italia è il paese con le maggiori differenze fra le scuole e anche su base geografica il divario è ampio, con risultati di eccellenza concentrati nelle regioni del nord. E continuano le proteste degli studenti contro la riforma Gelmini. Stamattina blitz nella sede della Fondazione Roma. Ci sono stati momenti di tensione con i vigilanti. I ragazzi hanno spintonato gli uomini della vigilanza e la vetrata si è rotta. Un giovane è stato ferito. La protesta si è poi spostata a Piazza San Silvestro. Nuovo appuntamento questa mattina per Lega e Assocalciatori in Federcalcio per provare a raggiungere l'accordo sul contratto collettivo ed evitare lo sciopero di questo fine settimana. Ci colleghiamo in diretta con Andrea Viali. Sì, si prevedono tempi lunghi per questo incontro che sta iniziando in Via Allegri, dove sono arrivati quasi tutti i rappresentanti della Lega di Serie A e dell'Associazione Calciatori. Non ci presentiamo con l'idea di cedere, ha subito avvertito, arrivando appunto il presidente della Lega Beretta. Quella di oggi, lo ricordiamo, è una riunione convocata ad oltranza dalla Federcalcio. I nodi da sciogliere sono quelli noti, restano quelli di quello dei trasferimenti anche contro la volontà dei giocatori e quello degli allenamenti dei fuori rosa. Non vorrei che si trattasse soltanto di un paravento dietro il quale si nascondono altri motivi, ha detto ieri il presidente della Federcalcio Abete, che per questo oggi chiederà alle parti di mettere nero su bianco gli altri punti del nuovo contratto sui quali invece ci sarebbe già un accordo. Se questo non dovesse avvenire, cioè se lo stallo nelle trattative dovesse proseguire, la Federcalcio potrebbe anche decidere di diffidare la Lega e nominare un commissario che la rappresenti in questa difficile trattativa. Saremo a vedere, per ora da Via Allegri è tutto. Nella prima parte di GR24 abbiamo parlato dell'arresto a Londra del fondatore di Wikileaks, Julian Assange. Il commento di Frattini: era ora. Invece il portavoce di Wikileaks dice: l'arresto di Assange non ci fermerà. Via libera dell'Ecofin al piano di aiuti per l'Irlanda, in arrivo 85 miliardi di euro, di cui 35 per la ricapitalizzazione delle banche. Ed è stato un errore di traduzione, dunque tutto da rifare per la scomparsa di Yara nel Bergamasco, disposta questa mattina la scarcerazione per Mohamed Fikri. E ripartiamo parlando di rifiuti. Comincia oggi infatti il trasferimento della spazzatura di Napoli verso la Puglia. A proposito della collaborazione e della solidarietà delle altre regioni, il governatore Vendola ha bacchettato soprattutto il Veneto, che si è detto indisponibile ad accogliere i rifiuti campani. Sentiamolo al microfono di Valeria De Rosa. Io ho considerato veramente irricevibili le parole del presidente Zaia sulla questione della crisi dei rifiuti in Campania. Sono parole che contengono un falso storico. Nel Mezzogiorno d'Italia i conferimenti di rifiuti dal nord sono stati sistematici, massicci e hanno riguardato sia discariche legali che discariche illegali. Poi non percepire che la questione campana è una questione nazionale, che quella crisi dei rifiuti comunque diventa un grave pregiudizio internazionale per l'immagine del nostro paese, per la sua economia anche, per la sua attrattività turistica, per l'attrattività degli investimenti. L'idea che ci si possa sottrarre, fra l'altro avevamo soprattutto chiesto una condivisione politica. Per taluni si trattava anche di compiere qualche gesto simbolico di solidarietà, no? Visto che il grosso dei rifiuti li avrebbe presi la mia regione. E invece è mancato anche questo, per questo io sono molto indispettito. Questa sua essere indispettito potrebbe portare anche a non accogliere più i rifiuti del Veneto, poi non so di che tipo di rifiuti si tratti. In questo momento i miei uffici stanno svolgendo un monitoraggio, azienda per azienda, su tutti i conferimenti che giungono da fuori regione. Perché io penso che se il presidente della regione Veneto enuncia una tesi, che è quella che ognuno si deve tenere in casa propria i rifiuti che produce, allora io penso che noi dobbiamo rispettare la sua volontà. Quindi attualmente voi non avete comunque la sicurezza di aver già accolto? Sono in corso i monitoraggi. Importante svolta della Cina, la 16ª conferenza dell'ONU sui cambiamenti climatici in corso a Cancun, in Messico. Pechino ha dichiarato di essere disposta a ridurre le emissioni di CO2. Il pacchetto Cancun sui cambiamenti climatici sembra possibile, sta rientrando il pericolo che il protocollo di Kyoto subisca battute d'arresto. Sulla carta, la 16ª conferenza ONU sul clima di Cancun ha già visto l'ok di Pechino a ridurre volontariamente le emissioni di CO2. Il colpo grosso sarebbe quello di portare a casa un impegno vincolante di Stati Uniti e Cina sui parametri previsti da Kyoto. L'Europa, per dimostrarsi virtuosa, ha già detto che ridurrà ancora di più le sue emissioni. Il vertice si chiude venerdì. Secondo il commissario europeo al clima, Connie Hedegaard, i testi non sono ancora pronti per i ministri perché ci sono troppe opzioni aperte. Si rischia cioè che il pacchetto messicano diventi un pacchetto vuoto di sostanza. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. In partenza per Cancun, il ministro dell'Ambiente Stefania Prestigiacomo dice: l'Italia ha provveduto ad onorare l'impegno di 200 milioni di euro previsti per gli aiuti ai paesi in via di sviluppo per far fronte ai cambiamenti climatici. Restiamo sui temi ambientali, ma sono brutte notizie. 52 persone morte in un anno per frane ed alluvioni, 650 milioni di euro spesi dall'ottobre 2009 per le emergenze legate al dissesto del territorio. Dal Veneto alla Sicilia il rischio idrogeologico rimane altissimo, come spiega l'ottavo rapporto Ecosistema Rischio 2010 firmato da Legambiente e Protezione Civile. Paola Anania ha intervistato Francesca Ottaviani di Legambiente Nazionale. La situazione del rischio idrogeologico nel nostro paese è, come testimoniano purtroppo gli ultimi gravi eventi che hanno colpito diverse zone del nostro paese, è sufficiente pensare a quanto è accaduto in Veneto poco tempo fa, è abbastanza preoccupante. Quanti comuni sono a rischio? Si può fare una stima? Sono oltre 6.000 i comuni in cui siano presenti aree ad elevata criticità idrogeologica. Questo vuol dire che insomma il nostro territorio è piuttosto fragile da questo punto di vista. Dalla stima che abbiamo realizzato ci sono circa 3 milioni e mezzo di persone che ogni giorno vivono o lavorano in aree esposte al rischio idrogeologico, quindi vuol dire esposte al pericolo di frane o di alluvioni. Comuni distribuiti in tutta Italia o solo in una parte del paese? Guarda, il rischio idrogeologico riguarda in forme diverse tutto il territorio nazionale. Nell'ultimo anno quante persone sono morte per alluvioni, frane, eccetera? Purtroppo dall'ottobre del 2009 a oggi ci sono state in Italia 52 vittime in casi di calamità dovute a fenomeni di dissesto idrogeologico. È sufficiente pensare, per notare quanto sia grave questo fenomeno, se possiamo solo fare un calcolo di quanti soldi sono stati spesi per fronteggiare le gravi emergenze che hanno colpito soltanto negli ultimi mesi il nostro paese. Dall'ottobre del 2009 fino ad oggi sono stati spesi più di 650 milioni di euro soltanto per fronteggiare le prime emergenze, quindi per soccorrere la popolazione e per avviare i primi interventi di ricostruzione nelle zone colpite. È ovvio che sarebbe necessario e urgente investire del denaro prima, cioè operare nella prevenzione, quindi delocalizzare dove è possibile le strutture, realizzare interventi di messa in sicurezza mirati per ridurre il rischio in quelle aree dove è maggiore ovviamente l'eventualità che si verifichino fenomeni calamitosi. Il marchio italiano più conosciuto dai giovani cinesi con un reddito medio alto è la Ferrari, ma subito dopo ci sono la pizza, che non è un marchio, e Louis Vuitton, che è francese. Il dato emerge da una ricerca realizzata dal Politecnico di Milano e Macno durante l'Expo di Shanghai, testimonianza della difficoltà di imporsi dei nostri brand. Simone Spezia ha intervistato Giuliano Noci, economista e professore di marketing al Politecnico. Questi compratori in nuce hanno una grande confusione in testa, è figlia certamente di un approccio di comunicazione che ha ampi spazi di miglioramento. Quando vanno ad esempio da Pizza Hut o da Papa San John pensano di comprare italiano, è veramente una disdetta. Veniamo invece ai settori che i cinesi considerano di eccellenza italiana. Abbiamo la moda e l'agroalimentare, e però dall'altra parte il settore dei mobili è considerato di eccellenza da meno di un quarto delle persone che avete intervistato. Perché in questo tipo di settore le nostre imprese non sono ancora state in grado di adeguare la propria offerta a quelli che sono i tratti distintivi del consumatore locale. Secondo elemento, lei giustamente diceva l'agroalimentare è molto richiesto, mi permette di dire è richiesto ma noi non siamo in grado di soddisfarli, esportiamo in Cina solo 110 milioni di euro che è lo stesso esportazione che noi facciamo in Serbia e in Romania, quindi esiste una domanda potenziale enorme che purtroppo non siamo in grado di soddisfare per l'assenza di catene distributive e per un eccessivo livello di frammentazione della domanda. Ed ora il nostro appuntamento con l'Italia che riparte. Venti di ripresa. L'Italia che riparte. Nel 2009 abbiamo perso il 17% e nel 2010 stiamo riprendendo il 20%. Sauro Pieroni è il titolare del calzaturificio Kelton di Monte Urano in provincia di Fermo, un distretto noto per le calzature. In particolare Kelton, che ha una ventina di dipendenti, è specializzato nella produzione di scarpe da donna. Ecco la ricetta per uscire dalla crisi, secondo Pieroni. Abbiamo investito molto in una manodopera qualificata, attrezzature, innovazione, campionario, ricerca materiali, abbiamo fatto tanti campioni, tante linee e poi abbiamo dato un grande servizio ai clienti, quanto che i clienti ci chiedono dei riassortimenti sugli articoli che vanno bene, noi siamo pronti di servirgli i loro riassortimenti in 6 giorni lavorativi. Poi abbiamo fatto un grande investimento nella rete vendita, con le fiere, la rete vendita intendiamo le fiere perché il prodotto lo vendiamo tutto da soli. Alessandra Tedesco, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Alle 17 la Valchiria di Richard Wagner, opera che inaugura la stagione Scaligera. Attesi quest'anno meno VIP in teatro ma molte proteste all'esterno. E allora cominciamo a collegarci subito con Piazza della Scala, dove c'è per noi Marta Cagnola. Tutto tranquillo, Marta? Tutto tranquillo, per ora solo sono già pronte le transenne, ma ancora non ci sono le proteste. Come dicevamo, sarà molto probabilmente una prima di musica e di piazza più che di mondanità. Crisi economica, incertezza politica, difficoltà del mondo dello spettacolo si attendono in teatro soprattutto addetti ai lavori e amanti dell'opera. Tra i politici il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, il Ministro dello Sviluppo Economico Paolo Romani e quello del Turismo Michela Brambilla. Era previsto anche il Ministro dei Beni Culturali Sandro Bondi, ma da Roma si fa sapere, almeno ufficialmente, che molto impegni. Probabilmente sarà richiesta la sua presenza in Senato. Certo. Se era fuori del teatro le proteste, a partire dalle 15 potrebbero arrivare in piazza anche Toni Servillo, Paolo Rossi e Monio Vadia per le proteste contro Italia la cultura, ma in piazza scenderanno anche universitari, studenti, alcuni degli immigrati che hanno protestato a Milano per 27 giorni sulla ciminiera della certo. ex azienda farmaceutica. Dunque, Carlo Erba. Un pomeriggio fra musica e proteste, tutto da raccontare, lo faremo naturalmente qui su Radio 24. Grazie a Marta Cagnola. Ora invece parliamo un po' di noi. Assegnati stamattina agli Ambrogini d'Oro, le onorificenze conferite dal Comune di Milano a persone, associazioni ed aziende, premiata anche Radio 24, un riconoscimento per il lavoro della redazione in questi 11 anni. E infine il cinema, ci colleghiamo con Roma e con Massimiliano Zampini, perché buongiorno Massimiliano, tappa romana per Cameron Diaz. Sì, buongiorno, parata di Sale, Roma, per Cameron Diaz insieme al cast di The Green Hornet, un divertentissimo action movie che uscirà dopo l'infornata dei film di Natale, quindi a gennaio, è stata a Roma insieme a Seth Rogen e a Christoph Waltz, il terribile colonnello nazista, premio Oscar per Bastardi senza gloria. Un film molto divertente, anche qui Christoph Waltz interpreta un cattivissimo in un film che parla di supereroi un po' strani e molto divertenti. Cameron Diaz ha ha giocato molto anche sul fatto dei suoi anni e dell'età che passa, ma non si è detta preoccupata alla domanda se le attrici la possiamo sentire. Sentiamo la Cameron Diaz, così vi racconto quello che ha detto. E Cameron Diaz non si è detta preoccupata per gli anni che passano e per il fatto che alle attrici, quando invecchiano un po', non vengono dati più ruoli importanti. In grandissima forma, più bella che mai, quindi gli anni passano, ti sei divertito, ma lei insomma sempre in grandissima forma. grazie a Massimiliano Zampini, e si chiude qui questo GR24, il prossimo alle 14. GR24, il sole 24 ore. Direttore Fabio Tamburini.